benvenuto. Un benvenuto anche ai nostri giovani relatori che questa sera ci presentano con l'ausilio anche di bellissime fotografie un nuovo libro su Tirolo, Il cammino degli eredi. È la novità editoriale di una casa editrice trentina che nasce dalla volontà e dalla sapienza di questi, posso definirli ragazzi, che provengono dall'università, sono tutti ricercatori e si occupano di antropologia, di architettura, comunque di come vivere, pensare, abitare e progettare anche un ambiente. E è interessante perché noi parliamo sempre di storia e ci piace, no? Vogliamo in questa biblioteca, abbiamo parecchi incontri di storia moderna e contemporanea legati a questo territorio, però è sicuramente interessante e necessario avere un approccio anche diverso, no? Capire anche quali sono le altre prospettive, quali sono le altre ottiche, come pensare, come vedere il territorio dove abitiamo. E in questo ci aiuteranno stasera i nostri relatori, sono accompagnati da Andrea Fulvi Brighenti. E niente, vi auguro una buona serata. Noi facciamo sempre anche questa bibliografia, abbiamo una vetrina con i titoli di altre opere che possono aiutarvi così ad approfondire appunto anche questi temi. Approfitto sempre dell'occasione per ricordarvi, ma trovate anche le cartoline sulla sedia, la prossima settimana sarà sempre l'occasione per un altro incontro di taglio più filosofico che storico col professor Andrea Felis, che ci presenterà alcuni suoi lavori sulla lettura, sui libri, sulla parola, sulla lingua, insomma avremo un altro suggerimento di lettura. Poi invece 2 dicembre, che è un giovedì, sarà la volta dell'incontro Matrimonio di Sangue, Sirio Laitone, mia nonna artista, l'autore è Franco Latina, un autore locale con i suoi racconti ambientati sempre sul territorio. Il 3 dicembre invece sarà la volta della Corsa dell'Anima da un pensiero all'altro con Marion Anton Orefice e Luca Stefani, anche in questo caso sempre autori locali. E infine torna Fabio Marcotto il 7 dicembre alle ore 11. Ecco, adesso ogni tanto facciamo qualcosa, il matinée facciamo. Fabio Marcotto lo conoscete, insegna italiano all'Università di San Pietroburgo. Ogni anno a Natale torna e ci racconta una nuova storia e sarà appunto la sua volta. Io vi ringrazio tantissimo dell'invito che appunto avete accolto e faccio in bocca al lupo per tutto. Vi porto i saluti anche del nostro assessore e a voi la parola. Grazie. Ringrazio appunto la direttrice e ringrazio voi per essere qui e provo a raccontarvi un po' che cosa sarebbe il tentativo di questa serata. Dunque, io sono appunto Andrea Fulvi Brighenti e in questo caso rappresento appunto questa piccola impresa editoriale che è nata un po' accanto a un gruppo di ricerca che è di persone che si sono incontrate in qualche modo all'Università di Trento attraverso discipline diverse. Ma interessato in qualche modo tutto allo spazio, alle questioni dello spazio e del territorio, no? Quindi fondamentalmente sarà una serata non tanto storica quanto geografica. E il libro che fornisce un po' il pretesto per questa serata, che vorrebbe essere non tanto la presentazione in sé del libro, ma quanto una discussione, diciamo, è un libro cui l'autore qui alla mia destra è Francesco Bocchetti, che è un geografo appunto, e che è un libro che racconta un itinerario, e io lo lascerei introdurre a lui. Dopodiché abbiamo due altri ospiti che abbiamo invitato per discutere a partire da in qualche modo, no? Come se il libro ci potesse fornire, libro che poi tra l'altro abbiamo qui fuori, insomma, se siete interessati poi a acquistarlo, insomma, lo potete fare. Il libro ha fornito, ecco, lo abbiamo in qualche modo fatto leggere a questi altri due nostri amici, ospiti, interlocutori, in discipline diverse e a partire dal libro vorremmo provare a fare un ragionamento su quello che significa abitare oggi le Alpi, pensare lo spazio e il territorio e il paesaggio delle Alpi oggi. Chiaramente sono temi giganteschi, no? Non pensiamo di arrivare qui e risolverli con un colpo di bacchetta magica, no? Sono un invito a tutti noi per porci dei problemi più che darci delle soluzioni. Ma in qualche modo sono un tema che ci è caro, ci interessa e su cui appunto pensiamo che stimolare un dibattito possa essere importante e farlo possibilmente con voce diversa. Allora, abbiamo invitato a intervenire l'architetto Carlo Calderan, che è il redattore della rivista Turris Babel, la rivista dell'Ordine degli Architetti di Bolzano, e che quindi appunto gioca in casa, ecco, tant'è che ci ha portato lui in giro adesso per Bolzano per recuperare un po' di materiale ci serviva, e appunto a cui abbiamo chiesto un po' di vederla dal punto di vista, ecco, di un abitante del territorio e di una persona che lavora effettivamente, che progetta effettivamente anche per il e sul territorio, no? E poi a Cristian Arnoldi, con cui siamo insomma diventati amici di recente, ma ci siamo trovati su un sacco di questioni. Cristian è un antropologo che ha pubblicato lo scorso anno un libro che si chiama Tristi Montagne, un libro che ha suscitato anche un certo dibattito, che ha vinto un premio al Festival della Montagna di Trento proprio questa edizione, e che rappresenta il frutto di una sua ricerca di dottorato su cui ha speso molto tempo, anche nutrita di molte interviste e di molto materiale empirico, in cui Christian in un certo modo prova a riflettere su quelli che sono i malesseri delle Alpi e prova a riflettere come mai, appunto, in che contesto, in che modo si generano questi problemi sociali. Quindi in qualche modo era un tentativo di mostrare un aspetto che nella enorme produzione di letteratura che viene fatta sulle Alpi occupa un punto di vista un po' marginale, insomma, e quindi di ritrovare però una dimensione estremamente importante, e lo fa chiaramente, come avete capito fin dal titolo, in dialogo con l'antropologia classica, dalle Lévi-Strauss in poi. Io potrei passare la parola a Francesco, con il quale appunto abbiamo progettato questo libro, che invece è un libro che ci ha tenuti impegnati un bel po', che è un libro non strettamente di ricerca, è un libro fotografico, quindi è un libro che abbiamo pensato anche, diciamo, organizzato fondamentalmente come un diario fotografico, l'abbiamo sottotitolato, o forse nell'introduzione l'abbiamo definito tale. È un libro che appunto Francesco ha fatto con un fotografo che si chiama Gianni Zotta, e che forse, come avrete un po' capito dal titolo, è un gioco, prego, ci sono posti qui ancora liberi. È un libro che prova a dialogare con un testo classico, no? Con un testo anche un po' più grande di noi, chiaramente, che è il libro famoso di Gorfer e Paganello, uscito ancora, diciamo, negli anni 70, no? Che è Gli eredi della solitudine. E qui, diciamo, abbiamo invece cercato di rilanciare questa idea di un'eredità ancora da percorrere, no? Quindi non una solitudine che si eredita, ma un cammino che si cerca di fare a partire da questo. Insomma. E quindi Francesco magari vi può raccontare quello che è stato il progetto, diciamo, del suo libro, che è un libro, diciamo, nato, diciamo, a margine, diciamo, in qualche modo del tuo studio, no? Non è, a differenza del libro, diciamo, di Christian, che peraltro non abbiamo editato noi, ma insomma magari ci sarebbe piaciuto avere anche quello, ma insomma abbiamo fatto solo questo, però è un libro, diciamo, che nasce comunque con una specie di sensibilità geografica di fondo, ma che vuole essere in qualche modo leggero. Se non abbiamo, ecco, delle grandissime ambizioni, ma abbiamo cercato comunque di dare una fotografia degli stessi masi in cui erano andati Gorfer e Paganello, insomma. Quindi prego, Franz, se vuoi parlare della cosa. Niente, vi racconto un po' cosa c'è, senza svelare tutto, naturalmente. Negli anni 70, 1971-72, Aldo Gorfer e Fabio Paganello, che era un fotografo, giornalista e fotografo, passando in autostrada nel fondovalle della Valle dell'Adige, guardano verso l'alto e si domandano chi abita lassù. capita a tanti noi di Fondovalle di fare questo ragionamento, insomma, e decidono di fare questa inchiesta e accompagnati dal parroco, dalla guardia forestale, dagli amici, eccetera, vanno a visitare una ventina di masi di montagna tra i più lontani di tutti. Oggi diremo quelli dove finisce la strada, allora erano quelli dove non arrivava la strada. E ne producono un libro che ha un grandissimo successo e anche un grandissimo impatto. Io ho avuto modo nel fare questo percorso, diciamo, nel replicare questo percorso a 35 anni di distanza, di parlare anche con esponenti delle istituzioni, eccetera, e tutti mostravano di conoscere questo libro e di, come dire, di averlo utilizzato in qualche modo per ricavare delle lezioni o comunque per ricavare delle strategie, delle politiche, cosa che, diciamo, mi ha sorpreso. Io devo confessare, non lo conoscevo il libro di Gorfer quando mi è stata per la prima volta prospettata questa idea, poi l'ho letto, riletto, approfondito, eccetera, però allora non lo conoscevo ancora. E niente, abbiamo deciso così, un piccolo gruppetto di cui appunto faceva parte chiaramente Gianni Zotta, che è il fotografo, che era il boccia di bottega di Faganello, diciamo il suo allievo. Faceva parte di Tarcisio Grandi, che è l'ex presidente della regione, è stato, e ogni tanto qualche ospite, amico che ci accompagnava. Siamo partiti con la macchina e abbiamo fatto un po' anche di incoscienza questo viaggio nei masi. Questa volta senza essere accompagnati, questa volta senza interprete, senza essere preannunciati, e abbiamo bussato alle porte, abbiamo così interrogato la gente, cercato di capire come vivevano, cos'è successo in tutti questi anni, e com'era il maso. Anche, diciamo, da parte mia, cercando in qualche modo, specialmente quando mi sono poi messo a scrivere il libro, di slegarmi un po' anche dal Gorfer, nel senso che non è la seconda puntata di un libro, volendo può essere letto anche in modo autonomo, senza conoscere ciò che Gorfer aveva scritto 35 anni fa. Chiaro, dà qualche chiave di lettura in più conoscere gli eredi della solitudine, è un modello molto alto, però diciamo, lo scopo era più che altro quello di vedere, di tracciare un quadro delle storie, dei racconti, degli incontri sui luoghi che una volta erano ai margini e vedere oggi che fine avevano fatto. E ne sono nate, diciamo, 23 capitoli, uno dedicato a ciascuno di questi masi, che in buona parte non si trovano più ai margini, adesso sono dove finisce la strada, a volte la strada continua addirittura oltre, e alcuni di questi masi sono stati abbandonati. Io ne contavo solo uno, che tra l'altro è il primo che avete visto nelle fotografie. Questo tecnicamente, anche questo è tecnicamente abbandonato, però il proprietario di questo maso qui, che è bruciato, abita nella casa di sopra, quindi non lo considero un maso abbandonato. E così, insomma, paradossalmente, per esempio, dicevo, il primo maso che avete visto, che era l'unico abbandonato, era quello che nel 1971 aveva già la strada e la luce elettrica, l'unico, mentre tutti gli altri non avevano né strada né luce elettrica, si trovavano a ore di cammino, eccetera eccetera. Oggi tutti sono raggiunti da una strada, tutti hanno la luce elettrica, il telefono. In tanti di questi masi sono tuttora abitati, una discreta misura è abitata da famiglie giovani, altri sono abitati da anziani soli, alcuni sono utilizzati, non sono più abitati, ma sono comunque utilizzati come stalla, per esempio. Tante delle famiglie giovani, per esempio, tutti gli abitanti dove ci sono famiglie giovani hanno il doppio o triplo lavoro, nel senso che tengono il maso, sono tutti masi, tranne uno che è un fuori programma, sono tutti masi iscritti al regime del maso chiuso, per intenderci, quindi hanno tutta una serie di regole, di normative che impongono la permanenza, la coltivazione, eccetera, quindi sono tutti tenuti, coltivati, abitati, eccetera, però nessuno dei proprietari fa solo il contadino. Tutti hanno un secondo lavoro, hanno un lavoro a fondo valle, se sono sposati la moglie lavora a fondo valle, fondo valle un paese, magari non a Merano ma a Laces, hanno tutti questa vita così sdoppiata tra alto e basso, e la gente compra le cipolle e le patate al supermercato, e invece addirittura magari anche il latte, si vede in una fotografia magari che non c'è qua, non c'è neanche sul libro, si vede uno che scarica un cartone di latte dal bagagliaio della macchina, cosa che nell'idea, diciamo, ancora negli anni 70, nell'idea di questo Maso che doveva essere il baluardo di indipendenza, in cui tutto era lontano, tutto era scomodo, tutto era irraggiungibile, non esisteva. Insomma, il latte si produceva in casa, le patate si producevano in casa, le cipolle si producevano in casa, a Fondovalle si scendeva la domenica, poi i bambini tutti i giorni per andare a scuola e gli adulti la domenica per andare alla messa. E per esempio molti di questi posti sono diventati posti turistici, quelli un po' più intraprendenti si sono aperti la loro house station, addirittura magari si sono aperti l'alberghetto, l'affittacamere, insomma hanno costruito un mondo in evoluzione che, come dico io appunto adesso, è vista soltanto un quarto d'ora in più dal resto del mondo rispetto a quello che potrebbe essere Bolzano o un'altra città, insomma. Ecco, il quarto d'ora che serve per andare dalla strada di Fondovalle fino al Maso, e poi dopo la differenza tra arrivare a Londra, a New York, da Maso Grub o arrivarci da Bolzano è tutta lì. Ecco, così, questo è più o meno il quadro del progetto. Va bene, grazie Francesco. Io chiederei appunto a Carlo, no? Che ha ragione e lavora sul territorio, vedendo anche un po', diciamo, queste immagini, quanto per te, anche in una riflessione più generale, di, se vogliamo, anche di un orizzonte di scelte politiche, quanto è veramente stata una scelta felice, diciamo, quella di voler continuare a vivere in montagna, e se questa scelta ha, come dice in qualche modo Francesco, suburbanizzato il territorio, no? L'ha trasformato in una specie di ulteriore appendice di un sistema urbano, quanto invece sono rimaste delle strategie alternative, e se sono possibili, se sono viabili, se sono convenienti, secondo te? Sì, cioè, l'ho visto da un punto di vista dell'architetto, ovviamente, o di chi si occupa delle trasformazioni del territorio da un punto di vista fisico. Diciamo, il cammino degli eredi è stato reso possibile perché è stato deciso anche politicamente che andava mantenuto l'insediamento il più possibile, esteso il più possibile ad alta quota della popolazione rurale, ben sapendo che non sarebbe potuta sopravvivere solo facendo il contadino. E in questo modo però si è posta la base per la trasformazione del paesaggio che non poteva che avvenire, cioè se si decide coscientemente che il contadino in alta quota dovrà rimanere, potrà rimanere solo se nella condizione di pendolare, solo perché metà della sua vita la passa a fare il piastrellista, mi sembra uno dei casi, faceva il piastrellista e va alla posteria, o l'insegnante, o qualsiasi altra cosa a Fondovalle, è chiaro che il modo con cui questa persona, questa famiglia, questa comunità userà un territorio è completamente diverso. Il paesaggio che ne nasce in questi 20 anni, non possiamo però poi lamentarci che non sarà più quello di 20 anni prima. Cioè bisogna avere la coscienza che per consentire a questi contadini di rimanere là abbiamo bisogno di una strada, di una teleferica, di un insediamento artigianale non a Bolzano ma a Luzon, e di scuole diffuse, cioè di un tipo di occupazione del territorio, di uso del territorio che è molto più pesante e molto meno romantico di questo che abbiamo visto. Allora a me interessa vedere come o quanto siamo attrezzati a trasformare in maniera pianificata e non spontanea un paesaggio, quanto siamo capaci di farlo in modo che tutti ne siano contenti o in qualche modo si riconoscano in questa immagine, no? Perché in fondo il paesaggio non è che lo specchio della nostra modo di vedere un territorio, nel nostro modo di utilizzarlo. E qui nascono dei problemi, perché il disagio che si prova o le polemiche che si ascoltano quando si deve aprire una strada per andare in alta montagna, quando si trasforma un MAS in un albergo, o si costruisce, o per fare una, rendere accessibile una strada bisogna fare dei muri di contenimento alti 10 metri, derivano dalla nostra incapacità di disegnare il paesaggio in maniera condivisa o con tecniche che non siano così invasive. Allora a questo punto bisognerebbe anche chiederci qual è il limite che accettiamo di colonizzazione delle nostre montagne, se non sia il caso di abbandonare alcuni avamposti della cosiddetta civilizzazione o antropizzazione per lasciare invece spazio alla natura. Io, come si diceva prima al bar, diciamo, è chiaro che in Alto Adige questi discorsi sono gravati da motivi puramente etnico-ideologici, perché se fossimo in altre parti delle Alpi, la discussione sul limite dell'antropizzazione delle Alpi, della montagna, è affrontata in maniera molto più schietta, e l'abitante di città, almeno io conosco un po' la Svizzera, l'abitante di città dice esplicitamente: io non ti pago le tasse per mantenere un insediamento irresponsabile, perché minacciato da valanghe, in pericolo di frane. E in Svizzera, quando ci sono stati questi qualche anno fa questi gravi smottamenti che hanno travolto interi paesi, si è parlato esplicitamente di abbandono di alcune valli antropizzate perché non sostenibili, cioè non è più accettabile ostinarsi a vivere tra due canaloni costantemente distrutti dalle valanghe. Da noi questo discorso non si può fare, ovviamente non si può neanche dire alla gente tu te ne devi andare, però parlare schiettamente in maniera non ideologica su qual è il limite che vogliamo mantenere di uso della montagna sarebbe anche in Alto Adige opportuno, perché forse è meglio dire: ok, non voglio più usare quell'Alpe per non fare una strada, posso rinunciare a questa idea del contadino libero, perché sappiamo che questa idea è comunque non esiste più, perché è un contadino pendolare, no? Ecco, questi sono un po' i temi che... Certo, perfetto, grazie di questa posizione. Ora solleciterei Cristian, no? Perché abbiamo parlato diciamo, a partire da questo giro, quindi diciamo da un aspetto, se vogliamo, visivo, visuale. Abbiamo visto, abbiamo un'idea insomma di questo paesaggio, lo vediamo. Carlo ci ha dato anche uno sfondo, diciamo, di scelte politiche e di rapporto tra antropizzato e non. Ma vorrei chiedere a te invece, come l'aspetto culturale, ecco, se possiamo dire, l'aspetto antropologico-culturale, come si vive? Che tipo di orizzonti culturali e di intervissuta ci sono nelle Alpi oggi? Ovviamente tu hai lavorato non tanto, diciamo, sul Tirolo, che è un caso abbastanza particolare, però penso che comunque puoi... Certo. Intanto buonasera a tutti. Vorrei riprendere un attimo il discorso che diceva Carlo, perché mi pare interessante, no? Cioè lui dice, in fondo, si tratta di una decisione politica, no? Quella di mantenere, di sostenere, di rivitalizzare appunto questi avamposti d'alta quota, eccetera. Che è vero, è così, no? Il fatto è che però questa decisione politica non è una decisione come dire, nuova, non è una decisione che riguarda soltanto la provincia di Bolzano o quella di Trento, è qualche cosa che ha radici, secondo me, molto più lontane. Voglio dire, la stessa idea, no, con cui si concepisce nel senso comune la montagna, che è un'idea, voglio dire, non è antichissima, però insomma ha qualche secolo, no? È un'idea prettamente cittadina, no? Cioè, sono i cittadini che arrivano, visitano la montagna, scalano le montagne, gli abitanti della montagna non hanno mai scalato le montagne, non c'era ragione per farlo, no? Arrivano naturalmente gli inglesi, arrivano gli svizzeri, arrivano in qualche modo i cittadini con tutta una serie di attrezzature che sono quelle dell'alpinismo, che sono quelle scientifiche, tecnologiche, no? Tutte le cose per cui la montagna deve essere imbrigliata, controllata, costruite i sentieri, no? Deve essere in qualche modo avvolta in una rete di tutto, di sentieri, di strade, ma poi anche di tecnologia, le teleferiche che nominava lui, ma soltanto se pensiamo a questa realtà qui, perché se ci spostiamo un po', allora ci sono le seggiovie, le funivie, cioè di tutto, no? La città porta un'idea specifica di montagna, cioè quella che nasce ad un certo punto non è, come dire, prendiamo atto che esiste una montagna che è di un certo tipo. No, no, esiste un'idea precisa della montagna che fa riferimento al romanticismo, insomma, che riprende tutta una serie di valori che poi la montagna deve incarnare, no? Per cui, per l'appunto, valori anche non ben definiti, no? Se ne discuteva prima al bar, come una qualche autenticità, cosa vuol dire? Vuol dire, per esempio, un rapporto privilegiato con la natura, vuol dire vivere con i tempi della natura, vuol dire avere delle tradizioni radicate, dei valori e dei principi saldi, insomma vuol dire tutta una serie di cose, no? E questo rappresenta la montagna. Quindi chi guarda la montagna, chi va in montagna, chi osserva la montagna, ma direi a questo punto anche chi vive la montagna, vede questo nella montagna. Quando Gorfer e Faganello nel 71-72 fanno il loro giro nei Masi, no? Con questa idea dell'inchiesta, eccetera, eccetera. Ecco, io sinceramente avrei qualche dubbio a considerare questa cosa semplicemente come un lavoro di inchiesta. Cioè, alla fine degli anni 70, anzi, scusate, alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, coincidono esattamente con il periodo in cui in montagna si è avuto il massimo sviluppo del boom del turismo di massa e con l'idea che il turismo di massa ha però contemporaneamente trasformato la montagna e che quindi ora se uno va in montagna non trova più la vecchia montagna di sempre ma trova la città e quindi bisogna riscoprire quella vecchia montagna che adesso è sparita a causa del turismo. A Trento nel 68 viene fondato il Museo degli Usi e Costumi da Sebesta, che è uno che raccoglieva attrezzi, cose, e Faganello fa questo giro per i Masi dell'Alto Adige. Ma non fa solo questo, fa anche un giro in Trentino dove ci sono questi paesi mezzi abbandonati, eccetera, eccetera. Cioè si va in cerca di quella montagna che in qualche modo sta scomparendo e deve essere salvata, deve essere fissata tramite le fotografie, tramite i racconti, no? E questo perché? Perché a mio parere, è come dire, proprio, stiamo ragionando naturalmente a spanne e a grandi, no, un discorso che vale un po' per tutte le Alpi, poi bisognerebbe forse fare qualche distinzione, ma insomma intanto per metterli delle idee, è proprio quest'idea, no? Cioè in fondo il turismo di massa, che naturalmente ha portato un po' di benessere in montagna, e questo va anche, no, va preso atto evidentemente, no? Però contemporaneamente ha trasformato la montagna al punto tale che poi chi viene in montagna non la riconosce più, no? E quindi deve ritrovare qualche cosa della montagna di un tempo, e allora si vanno a ricercare per l'appunto i vecchi Masi, no? Tra l'altro è vero che, voglio dire, per rendere ancora vivibili questi luoghi qui bisogna fare degli interventi pesanti. Ma sono ben mascherati questi interventi, no? A me a un certo punto mi ha fatto sorridere uno dei racconti suoi in cui arriva e vede delle vacche strane, pelose, no? In uno di questi Masi, e chiede al contadino, dice, ma scusa, queste vacche cosa servono, per il latte o per la carne? E il contadino, un po' sorridendo, dice, ma non servono né per il latte né per la carne, servono per i turisti, perché i turisti in montagna vogliono vedere le vacche, no? Quindi voglio dire, esistono tutta una serie di mascheramenti alle comodità, agli interventi anche pesanti, che naturalmente ci sono, perché sennò chi sta a vivere lì, no? Senza un minimo di comodità, però si studiano tutte queste cose, per cui effettivamente, no, si dà a poco forma a questa sorta di parco, no? Di Luna Park, dove questi sono a tutti gli effetti degli elementi, no? Magari non sono il Luna Park inteso come il divertirsi, sciare, no? L'avventura sfrenata, la corsa, tutto quello che si fa sulle piste da sci, è un altro tipo di Luna Park, no? Forse non è esatto il termine Luna Park, lo potremmo definire museo, per esempio, no? O spazio della memoria, della conservazione, no? Dove naturalmente si cerca di mantenere questo equilibrio che evidentemente serve perché questo noi vogliamo vedere in montagna, non ci sono santi, no? Anche stamattina era un convegno a Trento sul questioni che riguardavano il paesaggio culturale, paesaggio storico, eccetera, eccetera. Cioè, in fondo il nostro problema oggi è quello di dover offrire, no? Di dover offrire un territorio, perché offrendo il territorio a dei turisti, delle iniziative, eccetera, c'è la possibilità di campare e di far arrivare dei soldi, no? Una delle forme evidentemente è questa, non c'è assolutamente dubbio, no? Quindi insomma è chiaro che, ecco, tutto va considerato in una dimensione estremamente complicata dove si inseriscono scelte politiche ma anche questioni identitarie evidentemente, no? Cioè questi Masi qui sono naturalmente una fetta forte che non è proporzionale all'effettivo peso in termini di abitanti, però è una una fetta forte dell'identità altoatesina, no? Non c'è dubbio. Così come i piccoli paesi in montagna sono una parte importante, anche se magari ormai mezzi disabitati, ma sono una parte importante dell'identità trentina, voglio dire, no? Ecco, quindi il senso di mantenere, il senso anche esagerato, voglio dire, di mantenere, di recuperare, di salvare, no? Che ormai è diventato effettivamente una specie di malattia, no? Uno dei malesseri delle Alpi è esattamente questo, cioè l'ossessione di dover conservare tutto, no? Perché oddio, è caduto un muretto, bisogna subito, dimenticandosi che la montagna è quella che descriveva lui prima, cioè la montagna non è una roba che rimane lì ferma, è in continuo movimento, e il movimento della montagna non è un movimento ascensionale, ma un movimento che scende verso il basso, di frane, di crolli, no? Di minaccia continua. La vita degli abitanti della montagna è una vita in costante pericolo, no? Gli abitanti sono in più in montagna, la montagna vive tranquillamente senza gli abitanti, su questo non c'è dubbio, no? C'è qualcos'altro che spinge e che fa sì che la gente stia lì arroccata, no? E sono valori, sono idee, no? Quindi l'identità, l'autenticità, eccetera, eccetera. Ti ringrazio, Cristian, perché effettivamente toccando questo tema dell'autenticità penso che hai sollevato una questione molto importante. Di solito si comincia a parlare di autenticità quando c'è una rottura, no? Perché è un tema, diciamo, in qualche modo sempre venato di nostalgia, quello dell'autentico. Allora magari io risolleciterei un'ultima volta Carlo, e poi prima magari di raccogliere un po' di osservazioni e di questioni vostre. Secondo te, Carlo, esiste una possibilità di pensare a un autentico, diciamo, in divenire, un autentico verso il futuro, che non sia un autentico, diciamo, illusorio, basato su delle radici che in realtà non vogliamo a tutti i costi conservare senza... Sì, cioè io penso che, insomma, dietro la parola autenticità si fa molta confusione, o forse molte persone pensano cose differenti, no? E il problema, come dici tu, si pone quando non siamo più sicuri di essere autentici in maniera spontanea, perché c'è da dire che il bello di questo paesaggio è che si faceva da solo, nessuno doveva in qualche modo dire come si faceva così. E il tutto diventa complicato quando, appunto, per fare un tornante ho bisogno di un muro di 10 metri, il contadino non ce la fa più, ho bisogno di un ingegnere che non è nato lì, che non ha fatto sempre quello e non riesce a lavorare con quella spontaneità, o comunque anche perché non sarebbe in grado di farlo, con i mezzi che avrebbe avuto un contadino 100 anni fa, non riesce a costruire le stesse opere, o un architetto, la stessa cosa. E allora nasce il problema dell'autenticità, che è quello di essere, per me, sinceri rispetto alla funzione che, o alla funzione, al ruolo, alla cultura che genera una costruzione. E allora io penso che quello che penso io sia autentico non lo è forse per la maggior parte della gente, no? Cioè è autentico ciò che non fa finta di essere qualcos'altro. E allora se noi analizziamo con un po' anche cinismo l'uso della nostra montagna, la nostra montagna è un uso prevalentemente turistico, d'alta montagna, adesso non parliamo dell'agricoltura che si sostiene ancora al di sotto dei 700-800 metri, quella che non ha bisogno di affittare camere per essere produttiva, ma tutto il resto vive quasi esclusivamente per il turismo. E allora è chiaro che questa società, questa economia, questa cultura dovrebbe rispecchiarsi in maniera spontanea nelle sue costruzioni, che spontaneo vuol dire usare le conoscenze che ho. È chiaro che non posso più pretendere che sia il contadino a capire come si disegna un paesaggio turistico, ma non posso neppure lasciarlo però a chi costruisce una funivia il compito di tracciare una pista, perché sa lui come si fa, perché non è così. Ci sono competenze che noi altoatesini, che vogliamo sempre essere moderni e aggiornati, non utilizziamo. La pista da sci me la disegna un architetto del paesaggio anche, così come una strada, cioè ormai la nostra società impone che le nostre competenze vengano utilizzate in tutti gli aspetti della trasformazione. E l'autenticità per me, soprattutto in architettura, nasce negli ultimi anni, è diventato un tema quando ci si è resi conto che non esiste un'architettura alpina generica, e quindi è antigenerica, che ovviamente ci viene richiesta per produrre un oggetto unico da vendere bene sul mercato. Lo scopo è quello di essere insostituibili, non quello di essere autentici o perché veri, diciamo. Chi vende il pacchetto vacanza vuole vendere un pacchetto che solo qui è riproducibile, e questo può nascere solo attraverso un rapporto privato dell'architetto, del committente, tra lui e ciò che ha, la sua storia personale, la tradizione, il luogo dove si trova. Quindi è una costruzione completamente culturale, niente di spontaneo, tutto artificiale, che va misurata guardando lo scarto tra il nuovo, il vecchio, quello che ho e quello che voglio diventare. E quindi non è facile, non è più così scontato. E quando penso che sia scontato, quando penso che basti mettere un balcone finto attaccato sulla parete di una fabbrica di birra come alla Forst, ecco lì sicuramente non sono autentico, no? Però spesso è la stessa operazione che si usa in un albergo, in una pizzeria o in qualsiasi altra funzione. Lasciare un'ultima parola a Francesco, che si è occupato nelle sue ricerche invece più, diciamo, scientifiche, effettivamente della questione dell'accessibilità alle montagne, e quindi questo tema anche per costruire le infrastrutture per l'accessibilità, quindi anche di turismo in qualche modo si è occupato, no? Quindi questo concetto dell'autentico rispetto a come l'hai poi visto, eccetera, lo teniamo o lo buttiamo? Che ne facciamo? Le persone che hai incontrato tu sono autentiche, lo sanno di esserlo, non lo sanno ma lo sono, lo sono e non lo sono, lo sanno e non lo sono, qualcosa del genere. Ma dipende. Anche perché appunto, è chiaro che un viaggio come quello del libro non ha un valore diciamo scientifico, comunque, cioè sono una raccolta di storie su cui poi si possono fare delle considerazioni, ma chiaramente non è da 20 masi che uno può trarre una lezione su un territorio. Ci sono persone che sono autentiche sicuramente, ma o masi, che poi in realtà io parlo di persone, ma in realtà è un lavoro sui masi, sui luoghi, non sulle persone che ci vivono specificamente. Ci sono masi e persone autentici a cui non importa assolutamente niente di esserlo o di non esserlo. Ci sono luoghi a cui importerebbe di essere autentici, ma che fanno di tutto per non esserlo, e per cui appunto, cioè, architettonicamente parlando, faccio un'invasione di campo, però quelli che vanno a ricostruire il maso e chiaramente creano questa nuova costruzione, questa costruzione ristrutturata con tutti i cliché possibili, immaginabili dell'architettura alpina, magari appunto il geranio, l'immancabile geranio a 2100 metri, dove il povero geranio infreddolito se ne sta lì e guarda le vacche scozzesi che pascolano nel prato sottostante, insomma. Per cui ci sono quelli appunto che volutamente cercano di non essere autentici, che si comprano la vacca Highlander scozzese col pelo lungo e le corna larghe, sapendo benissimo che non ha niente a che vedere con il territorio in cui sono, e facendo un'operazione volutamente, smaccatamente, coscientemente turistica. Cioè lo fanno apposta, sapendo di farlo apposta. C'è tutto, insomma. Diciamo, è un po', probabilmente quelli più autentici sono quelli meno coscienti del problema dell'autenticità, e magari a volte anche quelli che si trascinano dietro un malessere più forte. Sto pensando proprio a alcuni casi, insomma, di quelli più marginali. Cioè, ci sono ancora dei masi che sono ai margini in tutti i sensi, non che sono gli ultimi della strada, ma che sono proprio i margini dove si intuiscono, perlomeno, perché in due ore di colloquio non è che però si intuiscono che ci sono dei problemi, dei disagi, dei malesseri, e quindi magari a volte sono quelli che forse proprio per questa questione sono più autentici, o comunque sono meno, capiscono meno quello che gli sta succedendo attorno, forse. Cioè sono più autentici perché non hanno i mezzi per non esserlo. Abbiamo ancora, credo, una ventina di minuti che possiamo utilizzare prima della chiusura. Dicevo che abbiamo ancora un po' di tempo, e io raccoglierei un po' di osservazioni o domande anche vostre, insomma. Penso che questi paesaggi li conoscete meglio sicuramente di me, forse altrettanto bene che i nostri Volevo così una piccola testimonianza. Prego, prego. Io negli anni Ottanta sono arrivato a Stalvise, non so se l'avete sì, visitato. Sì, è uno di questi, sì. Entrando nella Stube c'era una vetrina con dentro gli eredi della solitudine in italiano. E al contadino, io ho parlato col contadino e ho notato che lui era molto orgoglioso di essere uno dei protagonisti del libro, tanto che lo teneva in vetrina. Era altrettanto orgoglioso vedere un cittadino che arrivava lì, che conosceva gli eredi della solitudine e che aveva letto anche il suo capitolo. Non so, c'era ancora il libro? C'è ancora, Stalvis adesso è un ristorante. Adesso è in internet addirittura. Sono arrivato su 2 anni fa, è in internet. È un ristorante molto apprezzato e ha le vacche scozzesi che pascolano nel anche prato. Probabilmente il contadino col quale io avevo parlato probabilmente non c'è più. Ma non lo so, beh, era l'80 circa. No, diciamo il proprietario c'è ancora vecchio Bauer, c'è ancora vecchio Bauer di Faganello, sui Gorfer. Sulle strade, scusate, aveva fatto il problema delle strade. Quante strade inutili ci sono in Alto Adige? Strade forestali. Appunto il concetto di utile. Con l'erba che cresce, vuol dire che sono anni e anni che nessuno passa su quelle strade. E soprattutto hanno tolto a molte Alpi il fascino della difficoltà di raggiungerle, no? E alla fine non so se penso alla Val d'Utri, alla Val Martello, sì, o in fondo alla Valle di Valles, ad esempio, quando hanno aperto la strada non c'è più stato questo attraversare il burrone per arrivare al Lago Selvaggio, non è più stata la stessa cosa, no? E questa perdita per quella c'era una malga sopra, non è che ci fosse poi granché, era dopo la malga ad esempio di Valles, sì, per me quella è una perdita secca. Alla fine siamo proprio sicuri che dobbiamo tenere tutti questi alpeggi ad altissima quota. Io lo capisco che fa parte ovviamente dell'idea che il nostro latte venga dalle I, che sia una specie di fonte miracolosa, no, sperando di no. Però alla fine forse per alcune parti bisognerebbe chiederselo e rinunciare ad antropizzare, no? Cioè ritirarsi un po' più giù. Una piccolissima incisione. Io ho avuto l'avventura di frequentare le valli del Piemonte, la Val Po, la Val Varaita. Beh, lì è una tristezza però. Qui si trovano i masi che ormai sono rinnovati, ci sono paesi interi abbandonati. Ma da decenni, da quando hanno fatto la Michelin a Cuneo, la montagna è stata abbandonata, i politici non hanno sovvenzionato la montagna. Non so, avete letto i libri di Nuto Levelli? Sì. Allora, sapete in che condizioni vivevano i montanari? In Val Po, in Val Varaita, eccetera. Però lì è una tristezza enorme, Vedere queste case. Fa tristezza vedere il Sud Tirolo e il Trentino ridotto come adesso. Devo essere sincero. Per me che io sono a livello così di tempo libero, un appassionato di alpinismo, sciatinismo, di vedere le montagne come sono ridotte, infatti non a caso dagli anni 70, da quando a livello politico hanno iniziato a fare le strade, è da lì che è iniziato anche il boom del turismo. Il Tirolo con Gustavo Teni, il turismo sciistico è arrivato, solo che adesso non c'è più freni, se solo pensiamo che già a Trento è già partito il mercatino, cioè sono cose che dovrebbero far pensare, per cui benvengano ragazzi giovani che ripropongono questo. Infatti io non sapendo questa cosa, quando ho visto che c'era questa serata, subito ho pensato al libro di Gorfer, infatti voi l'avete confermato appena arrivati, no? Per cui benvengano, anche se sinceramente c'è tanta gente delusa e che impaurita sia qua che nel Trentino, però è tutta gente di nicchia naturalmente, però la massa, soprattutto a Bolzano, in madrelingua italiano, proprio con la geografia non hanno nulla a che fare, cioè gli italiani vivono nella cittadella di Bolzano, tirano sugli occhi, riconoscono a palapena il Guncina dal colle, però non conoscono proprio il fondo tutta la problematica. La ringrazio perché in effetti lei solleva un tema, diciamo, se non questo dell'autentico, un tema che è strisciante ma che pone anche Carlo, insomma, è quello del limite, no? In un certo senso. E del limite direi anche proprio della misura, no? Che è una questione grossissima che riguarda le nostre vite, diciamo, in una prospettiva anche ecologica globale, ecco, insomma, qual è la misura che vogliamo porre oggi? E penso che il territorio sia veramente il punto dove si fa la misura, no? Dove dobbiamo in qualche modo inventarcela o farla. Vuol dire, noi appunto abbiamo forse più domande in realtà che risposte, almeno io in particolare, però sicuramente sarebbe una direzione in cui lavorare. Non so se c'è qualche altro commento, prego. Forse mi viene così, di fronte al vostro linguaggio proibitissimo, culturalmente notevole ed altissimo, mi viene un po' vergogna, che sono un po' della vecchia guardia, così anche collega come architetto, di ho lavorato in comune qui per umanità, e devo dire, anzitutto il mito sfatare quello che è il Trentino dall'Alto Adige. Il Trentino, signori, è una vergogna e dobbiamo dirlo questo. Non so se lo conoscete a fondo, perché ormai il territorio si è trasformato in seconda casa, non abbiamo il Maso Chiuso, che è la vera istituzione che può ancora tenere. Senza Maso Chiuso, anche il Sud Tirolo sarebbe in mano ai germanici, sarebbe in mano ai ricchi veneti, ai ricchi lombardi, ai ricchi romagnoli. Non parliamo dei romani e ci zona di Toronto. Di questo forse dovremmo dar atto all'ex assessore Benedict, il quale sarà stato, tra parentesi, tra virgolette, un mangia italiani, infatti lo era effettivamente, e ha strozzato la città di Bolzano, la sua espansione, eccetera, in quanto lui considerava solamente la periferia, i masi chiusi, ma non la città. Non aveva, non so, un Goldwater, per esempio, più cittadino rispetto all'altro, no? Ecco, quindi quello però ha salvato l'Alto Adige. Il Goldwater, con tutta la serie di immobiliaristi, con tutti i suoi interessi e i suoi grandi lobby, lo sta distruggendo. Ma rispetto al Trentino siamo ancora in un'isola, non dico di autenticità o di falsa autenticità, ma ancora un leggero paradiso. Il Trentino invece è distrutto. Parliamoci chiaramente, anche l'orso, signori, non è più autentico. L'orso ormai viene nelle nostre zone. Un'orsa, per esempio, un anno fa era andata su al colle di Cesare Battisti, centro storico sacro di Trento, l'acropoli di Trento, e ha soggiornato, eccetera. Gli altri giorni, non so, un residente di Covelo, zona di Tarlaro, mi raccontava che i suoi piccoli orti di Brugnari, con le prugne, non Brugnari di Trentino, sono distrutti perché l'orso non viene e raccoglie, diciamo, culturalmente la prugna, distrugge l'alberello, perché ormai è diventato così, distrugge i cassonetti, per cui la provincia di Trento ha dovuto installare un sistema difensivo di cassonetti costosissimo, la stessa provincia di Trento praticamente ogni anno dedica centinaia di migliaia di euro per pagare i danni. Ci sono contadini, signori, che vivono col contributo della provincia di Trento per 33 orsi trentini, tanto per citare il problema dell'autenticità, scusate, eh. Poi, chiaramente c'è da chiedersi, qual è l'autenticità architettura? La prima autenticità deve essere delle persone, che ormai quelle di una certa... sono morte ormai, sono vive, non possono più di nulla, non sono collegate a internet. Inoltre scolaretti nulla sanno della montagna. Addirittura le vacche, il Museo di Trento, il Museo di Storia Naturale di Trento, queste settimane sta portando una vacca, e scusate il termine, è uso il termine vacca proprio, no? E quattro pecore al museo per insegnare ai bambinelli di Trento, ai politici di Trento, nel centro storico di Trento, quello che rimane ancora di questa famosa autenticità. Basta leggere i giornali, signora, posso citare. Bisogna dirle la verità. Nessuno questa verità ha il coraggio di dirle. Scusate, vorrei dire ancora una cosa. Allora, il vantaggio, noi dobbiamo ancora tenere quest'ultimo, non è formato chiuso, questi pseudo contadini, questo contadino piastrellista, eccetera. Scusi, signora, perché non ho voluto. Perché quelli sono gli unici che potranno salvare la montagna. Quando arriva il temporale mettono a posto la canaletta prima ancora di parlare dei muradioni. Questo è il problema fondamentale. Le nostre alluvioni che abbiamo avuto negli anni, c'era l'ingegnere dei bacini montani che ci diceva chiaramente, se quelli non tengono i ruscelli che vengono giù, non vanno dopo il temporale a metterli a posto, noi saremmo fregati, perché ormai le nostre valli saranno dilavate. e con questo diluvio quelle opere che sono state fatte arriveranno giù fino alla pianura, fino all'Adige, sotto Salorno, perché Salorno non deve essere più allagato, le paludi di Ora sono scomparse, quelle di Mezzocorona anche, non parliamo delle altre, arriveremo a Verona, no? Scusate qui la scuola dell'Istituto, quindi vorrei dire, distinguete assolutamente quello che è Trentino da quello che è Alto Adige, perché qui c'è anche un'altra natura, c'è una tradizione secolare, quei crocifissi là sono ancora cultura del Tirolo, no? Le stuve noi non abbiamo a Trentino, ecco, per avere la falsa autenticità se le bambanti passano, ecco, che fanno le stuve in Cirmolo, no? Ma le stuve erano solo di certi signori, tipo Casteltun. Lo stesso Casteltun, se voi andate a visitarlo adesso, ha intorno tutto i frutteti. Non doveva essere così, che i frutteti ci servono? Ai cervi perché vengono a mangiare, all'orso perché passi per Brenta, perché è lì, eccetera, tra Cavedago, Andalo, eccetera. Ecco, siamo ridotti così. Parliamo ancora di Storo, la seconda casa, la distruzione. C'era un attimo di interventi, prego. Non parliamo di Bolzano. Questi nasi sono da pitturare, sono più che altro situati nell'alta Val Venosta, o in tutto l'Alto Adige? No, non sono in tutto l'Alto Adige, sono in Venosta, in Pusteria. Mules, Fundres, Valdultimo, Valmartello, Senales, mancano alcune zone, mancano le valli ladine per esempio, quelle mancano completamente, manca Sarentino. Ma stavo pensando alla Val d'Aosta perché essendo in Val d'Aosta particolarmente presente il Maso Chiuso, in quanto che gli appezzamenti sono molto stretti rispetto a tutti gli altri valli, pensavo che no, sono quelli praticamente del giro che fece Gorfer. Non c'è mai stato un Maso Chiuso in Val d'Aosta, è fondamentale da centinaia di anni. Non è vero, lega. C'è un'altra osservazione? Dopo discutiamo. Prego, così diamo voce. Ha ragione. No, io no. Così diamo voce a tutti, dopo. Allora, i masi sono dappertutto, ve lo dico subito. È stata una legge indovinata in pieno, è giusto che rimanga così, poi è naturale che chi avete nei masi oggi non sono come i padri, i nonni, fa anche altri lavori, vengono giù per le strade, magari fa lo stradino, lavora sotto, poi la sera va su, però i masi come sono adesso sono anche organizzati bene, come avete visto uno c'è anche il satellitare, uno della foto. Hanno il computer, hanno le finestre con i vetri doppi, loro vivono bene in quei masi, poi affittano. La storia delle mucche non l'accetto io, perché guarda che l'Alto Asia ha 30.000 mucche, in città non le vede le mucche, sono tutte lassù, e anche 8.000 cavalli abbiamo su sull'altipiano di Avelengo e Bolzano, Milano 2.000, non sono qui, e poi la mucca che è lì per il turista, è una bala indovinata da qualcuno. Le mucche ci sono, loro vivono, hanno anche le mucche. Poi, se voi vedete, nei mari ci sono le teleferiche che vengono giù sulla strada asfaltata, dove arriva giù il bidone e ci sono i bidoni del latte dove passa il camion una volta due al giorno che raccoglie il latte per portarlo qui alla Mila o a Merano o a Vipiteno. C'è una bella organizzazione. E c'è anche e questi mari, che funziona. È giusto che ci siano. E naturalmente qualche anno fa c'era la tendenza a abbandonarle, adesso non le abbandonano più perché si sono organizzati, li hanno aiutati, sono organizzati bene, io ho vissuto dentro anche nei masi. I masi più vecchi della regione sono i Valdultimo, ve lo dico subito. I più ricercati, anche i turisti vanno a vederli. Quelli del Valdultimo sono i più vecchi. Poi si sono portati sull'acqua perché se vanno in certi masi a vedere il mulinello, vaiano perché coltivano. Si sono portati sulla corrente, l'acqua, anche per una volta c'era i vals, i canali che ci sono a Merano. Voi si vede che non siete di Bolzano. Mi piacerebbe di vedere uno della provincia, ha detto al Maso Chiuso qua, uno della provincia tedesco, per controbattere. Comunque tutto quello che ha detto c'è nel libro. Ci sono i vals, ci sono. Ma non la storia delle mucche. No, nel senso le mucche erano un esempio, adesso no, c'erano queste due mucche, tutte le altre. 30.000 mucche che ha dato altri non sono qua. Anche se devo dire che sempre sulle mucche, per esempio in un paio di masi il contadino ha fatto la scelta, ma credo una scelta che in qualche modo è indirizzata, di passare dalla mucca da latte alla mucca da carne per problemi di raccolta e distribuzione del latte. Cioè il latte è un prodotto deperibile e quindi va raccolto tutti i giorni. Fare 10-15 km di strada col furgone, perché le teleferiche ci sono, però vengono via via smantellate, sono sempre di meno. Ne fanno nuove, ne fanno. Fare 10-15 km di strada diventa in qualche modo antieconomico e oltretutto, avendo un doppio lavoro, la mucca da latte è un animale molto impegnativo, nel senso che chiaramente necessita di essere munto la mattina e di essere munto la sera. E quindi in tanti, un paio, perché io conosco questi 20 masi qua, bene, gli altri non saprei, mi hanno raccontato di come hanno fatto questa scelta di passare alla mucca da carne, che è sempre una mucca di tutto rispetto, per carità. Però hanno fatto questo passaggio che potrebbe essere una tendenza futura, non lo so. Anche in Emilia qui, Vipiteno, Merano, dove ci sono le gallerie sociali, vive con il latte che vengono dagli masi, dalle montagne. Se lei passa qui a Emilia, vede decine di camion, non è quello che viene dalla Germania, non tiratemi fuori quello. No, ma io posso dire una cosa, lei sicuramente ha ragione, però se quei masi sono statisticamente abitati da molta meno popolazione rispetto a 20 anni fa, e la popolazione che vi abita a metà del tempo lo passa a fare, diciamo, il piastrellistra, e non penso che lo sviluppo tecnologico della gestione della mucca o del campo si sia chissà quanto progredito, è chiaro che l'intensità di utilizzo di questa terra si è ridotto, perché poi stiamo parlando di masi d'alta quota, non stiamo parlando di certe situazioni dove ovviamente ci sono grandi masi con molte mucche, però se io metà del tempo lo posso dedicare a qualcos'altro, vuol dire che ho anche il tempo libero per farlo, e buona parte dell'economia di questi masi è legata anche al turismo, non è mica niente di negativo, bisogna soltanto dire questa situazione, questo paesaggio non è più quello di prima, in certe cose sopravvive ma in altre sarà necessariamente diverso, si tratta solo di come viene fatto. E devo dire anche rispetto alla legge di Benedicter, è vero, noi non abbiamo le seconde case, però nonostante tutto se vado a vedere Senna non avrò avuto le seconde case dei tedeschi, ma il risultato è tutt'altro che positivo. Cos'è successo? Andiamo a vedere, se non ho le seconde case ufficialmente, ma i finti appartamenti per residenti affittati ai tedeschi a Senna, così hanno trasformato un paese, o a Tirolo, hanno rovinato abbastanza quel paese, forse non siamo a livelli dei Grigioni, ma non ci siamo tanto lontani, per cui anche in naturale c'è un grande tabù, dire che si è costruito e fatto male, perché siamo i migliori in tutto, in realtà non è vero e bisognerebbe dircelo, perché altrimenti pensiamo che siamo sempre migliori dei trentini, migliori dei piemontesi, migliori di qua, migliori di là, non è poi così vero. Se lo guardiamo con attenzione. Sì, però nonostante tutto, meglio guardare i problemi. Di Christian, che è un trentino, pensare. Volevo fare anch'io un commento su questo, ma non è risultato di fare una graduatoria, no? Cioè, stabilito che gli altri sono sempre peggio. Vediamolo subito come fatto assodato, no? Però voglio dire, bisogna stare attenti a non costruire dei miti, no? Cioè qui non si sta, nel libro suo non ci sono dei giudizi, no? Non si sta dicendo tutto è bene, tutto è male, il cambiamento è bene, il resto è male, non è questo il problema, no? Si sta cercando di osservare una situazione. Ecco, mi suona strana, no, non tanto strana, ma mi sorprende un po' questa faccenda del maso chiuso, no? Che anche questo è uno dei grandi miti, no? Voglio dire, qualcuno di voi avrà letto sicuramente La frontiera nascosta di Eric Wolf e John Cole, no? Questa ricerca bellissima che è stata fatta in Val di Non, in due paesini, no? Sul confine, quello Trete, comune di fondo italiano-trentino, l'altro in svedese, cioè. Allora, nel comune di San Felice, all'epoca, insomma, prima che Cole arrivasse, eccetera, eccetera, e quindi storicamente erano, come dire, fotografate 25 masi, 25 proprietà, più alcuni usi civici, eccetera, no? E nel momento in cui è arrivato Cole, quindi questi erano, come dire, documenti storici, nel momento in cui sono arrivati due antropologi e li hanno contati, erano 60. Quindi se effettivamente la questione del maso chiuso funzionasse sul serio, le proprietà dovrebbero rimanere sempre uguali, no? In questo caso ci sono più che raddoppiate. Quindi anche qui, no? Insomma, non costruiamo dei miti su niente, no? Guardiamo le cose come sono e poi, per cortesia, voglio dire, i racconti dei problemi che porta anche il maso chiuso sono abbastanza evidenti. Insomma, io ho raccolto delle interviste di persone che avevano il problema di lasciare l'eredità, cioè persone sole che non sapevano chi dare questo maso, non sapevano come fare per venderlo, prezzi altissimi. I casi dove ci sono delle ragazze che quindi devono avere questo maso, che vengono predestinate ad avere il maso, e queste poverette che non vogliono il maso, non vogliono coltivare la terra, non vogliono fare i contadini, perché è legittimo anche questo, voglio dire, no, è bellissima la montagna, è bellissimo mungere, ma alzarsi tutta la mattina alle 4, insomma, è un po' pesantino. Qui anche questo è legittimo, quindi voglio dire, credo che, come dire, il messaggio che arriva un po' da questo libro non sia tanto quello di dare dei giudizi, noi siamo migliori, voi siete peggiori, non è questo. L'importante è, cioè, credo che l'idea sia quella di dire proviamo a vedere quello che c'è, insomma, al di là di tutte queste sovrastrutture che poi devono essere via via verificate e soprattutto verificate in contesti specifici, non così in maniera generale, no? Grazie Cristian, c'era ancora una signora, prego. Non ho capito a che cosa voi avete pensato nel momento in cui avete ricordato il caso di un qualche maso in Svizzera esposto alle valanghe perché costruito in una zona pericolosa, e la stessa cosa pare che sia anche qui da noi, no, e quindi queste riparazioni eventuali comportano una spesa. No, allora nell'esempio che cita, allora, sì, che scusi, cosa voi suggerite di abbandonare se fosse possibile il maso? No, in quel caso era più di un maso, era un intero paese costruito ostinatamente nel tempo, era un intero paese, Gondo penso che costruito ostinatamente lungo una valle dove c'erano sempre state frane. Allora, diciamo, c'era una necessità di sorvegliare la valle, eccetera. A un certo punto l'ennesima frana ha portato via mezzo paese, ma vale per una, può valere anche per una casa. Nel libro ci sono proprio dei casi, mi sembra il maso Egg, che è separato, costruito come un'isola fra due canaloni dove c'è sempre una valanga, quindi se fosse come uno scoglio in mezzo alla tempesta, diciamo, no? Leggendo il libro di Gorfer sembra un po' descritto così. Allora, a un certo punto, quando l'ho ricostruito mille volte, forse posso anche imparare che non è il posto dove devo costruire, perché questa benedetta saggezza contadina nasce anche dopo averci provato tante volte, ci si accorge che un posto proprio non vale la pena di costruirlo, lasciamo stare, no? Ci si può chiedere se è necessario esserci lì come esseri umani che trasformano il territorio e non lasciare spazio alla natura dove c'è bisogno, se si può rinunciare a quell'estremo avamposto, eccetera, no? Questo era un discorso, insomma. C'era anche un'osservazione dietro, forse no? C'era il signore là. Posso dire due parole? Sicuramente è un buon reportage fotografico. Però non si capisce il senso di tutto il libro, almeno da quello che non ho capito io fino adesso, se voi siete contrari a questa modernizzazione, perché hanno portato le strade fino ai masi della muta, perché i contadini secondo voi non hanno abbandonato le terre fino adesso, perché sono stati sovvenzionati. Cioè, la vostra soluzione qual è? Che non va bene così e dobbiamo portarli tutti a valle, o devono avere le mucche firmate, o gli yacht al castello di Mesnes? Cioè, okay, la soluzione qual è? Ecco. Tagliamo anche un altro il maso viene frazionato tra l'altro con terra e nessuno coltiva la terra e se ne vanno via. Vabbè. Raccogliamo anche un'altra. Ma sì, ecco, una cosa molto. Bisogna leggerlo per capire quali sono, insomma, mi sembra di aver capito che l'obiettivo era quello di fotografare una situazione ed eventualmente confrontarla con il passato, per chi ha letto questo libro del Gorfer o Wolfer, non l'ho capito, così, ma a titolo di insomma, sì, senza soluzioni, sotto mi sembra che tutti i ragionamenti che sono stati fatti sottendano a una domanda. Ma il limite qual è? Cioè, è giusto andare a mantenere un maso a 2100-2200 metri, il maso Egg che è lì in tanta malora, se uno riesce a scalare quella montagna, o in Austria per dire, perché, a un certo punto, perché a un certo punto bisogna domandarsi anche, questi masi sono nati per quale ragione? Nel 1500, nel 1600 famiglie disperate che cercavano di sopravvivere in qualche maniera sono state, diciamo, incaricate di dissodare quel pianoro lì o quella zona lì per trovare un sostentamento, ma erano situazioni disperate in un tempo ormai lontano, 500 anni, si sono mantenute bene, tanto di cappello. Ora però la situazione è talmente cambiata che forse incaponirsi, come in parte giustamente, perché hanno salvaguardato anche la valle, hanno salvaguardato le strade, tutto quello che è su, ma incaponirsi a voler mantenere il maso fino a 2000 e passa metri, adesso non ricordo a quanti metri sia il maso, le fabbriche, se non forse è sbagliato, forse dico no. Quindi bisogna porsi la domanda, e mi sembra che in qualche maniera tutti gli argomenti sono stati girati fuori, vanno a cercare questo limite, ma qual è il limite? È giusto salvare un maso a 2200, 2300 metri, o è giusto salvare un'azienda nel fondo valle che senza il prestito della banca, che se non è garantito da 3 firme non glielo dà nessuno? Cioè, forse viene fuori una domanda di questo genere qua. Magari lascerei, perché abbiamo già sforato le 7, lascerei magari un commento conclusivo a Francesco e Cristian, forse vogliono dire qualcosa. Cerco di conclusione parziale, esatto. Diciamo. Conclusione parziale rivedibile. Cioè, nel momento in cui ho iniziato a lavorare a questo tema, a scrivere questo libro, non c'era. Diciamo, non c'era un obiettivo, una tesi da dimostrare, e credo che non ci sia. Cioè, se uno legge il libro, non è che il libro è fatto per allo scopo di dimostrare che il maso di montagna deve essere abbandonato o deve essere mantenuto, non c'è questo. E parte chiaramente dall'eredità degli eredi della solitudine, che è un libro che è forse più orientato verso una tesi, che è la cui tesi era: la montagna viene abbandonata se non si porta la strada in ogni maso. Questo era grosso modo la tesi che emergeva, che non era una tesi programmatica che diceva portate la strada in ogni maso. Gorfer dice semplicemente: qua la gente non se ne va soltanto perché è talmente derelitta che non se ne può neanche andare. Per cui questi stanno su solo perché non hanno niente. Tant'è che l'unica loro eredità, da cui il titolo, non è il maso, ma è la solitudine. L'essere abbandonati in questo luogo senza domani, in questo medioevo a un chilometro da noi, in verticale, sempre un chilometro è. Quello che è stato fatto da noi è stato vedere che cosa era successo. E quello che è successo, quello che si documenta, è l'effetto di una scelta politica di gente che, appunto, come ho detto all'inizio, secondo me ha letto il libro, anzi tanti me l'hanno detto che hanno letto il libro di Gorfer, che ha di fatto portato una strada in ogni maso. Questo è un fatto, non è che è una cosa che si può dire deve essere fatto o non deve essere fatto. Ormai ogni maso ha la strada, cioè maso senza strada è un fatto, non che è successo nel 73, perché alcuni masi la strada l'hanno ricevuto nel 2002, non 20 anni fa. E quindi il lavoro è documentare che cosa è successo ora che c'è la strada, cosa sono diventati questi masi. E sono diventati varie cose. Cioè, in realtà non c'è un automatismo, anzi, erano molto più uguali gli uni agli altri i masi di 30 anni fa che ha visitato Gorfer, che non i masi di oggi. Una delle conclusioni a cui arriva il libro è che la strada la modernità impersonata dalla strada ha portato al Maso e agli abitanti dei Masi la libertà di poter decidere che cosa essere, che è una cosa bellissima, ma dall'altro lato è una cosa pericolosa. Questa è più o meno la conclusione.